questa non è teoria. È un sogno che porta via. Si concretizza in un volo mentale. Da gioia al tuo giorno. Gigi D'Agostino, l'inventore del nuovo mondo, Gigi D'Agostino. Non si ripete mai, ma è bello ripeterlo. Sempre lui, se schiava mai. Sei una persona capace di farmi tremare anche senza la tua presenza. Anche senza la tua presenza. Lo fai penetrando i miei pensieri. Pensieri. E per percorrendo con me i più oscuri sentieri. L'aperitivo di oggi è... It's meant to be. cammino che lo suona Gigi D'Agostino. Per l'appunto, il cammino che lo suona Gigi D'Agostino. Per l'appunto, sto cammino te lo suona solo Gigi D'Agostino. Te lo suona solo Gigi D'Agostino. Publicidade.